Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Ben presto, dopo l'arrivo degli Scerbachi alle acque del mattino, comparvero altre due persone che attrassero l'attenzione malevola di tutti. Erano un uomo altissimo e un po' curvo, con mani enormi, con un paltò vecchio troppo corto per lui, con occhi neri, ingenui e insieme terribili, e una donna carina, butterata, vestita assai male e senza gusto. Riconosciute queste persone come russi, Kitty aveva già cominciato nella sua immaginazione a comporre su di loro un bellissimo e commovente romanzo. Ma la principessa, avendo saputo dalla curliste che erano Levin Nikolai e Maria Nikolaevna, spiegò a Kitty quale cattivo soggetto fosse quel Levin, e tutti i sogni su queste due persone scomparvero. Non tanto perché la madre glielo avesse detto, quanto perché era il fratello di Konstantin, quelle due persone improvvisamente sembrarono a Kitty sommamente antipatiche. Quel Levin, con la sua abitudine di muovere convulsamente la testa, suscitava ora in lei un'invincibile repulsione. Le sembrava che nei suoi grandi occhi terribili, che la seguivano con ostinazione, si esprimesse un sentimento di odio e di dileggio, ed essa evitava di incontrarlo. Dal giorno seguente, osservando la sua amica sconosciuta, Kitty notò che Mademoiselle Varenka si trovava già, anche con Levin e con la sua donna, negli stessi rapporti in cui era con gli altri suoi protégé. Si avvicinava a loro, discorreva, faceva da interprete per la donna che non sapeva parlare nessuna lingua straniera. Kitty si mise a supplicare ancor più la madre di permetterle di far la conoscenza di Varenka, e per quanto alla principessa fosse sgradevole fare in un certo senso il primo passo per conoscere quella signora Stahl che si permetteva di insuperbirsi di chissà che, essa assunse informazioni su Varenka e, saputi su di lei particolari dai quali si poteva dedurre che in quella conoscenza non c'era nulla di male, benché pochino anche di buono, essa stessa si accostò per prima a Varenka e ne fece la conoscenza. Scelto il momento in cui sua figlia era andata alla fonte, mentre Varenka si era fermata davanti al panettiere, la principessa le si avvicinò. «Permettetemi di fare la vostra conoscenza», disse con il suo sorriso dignitoso. «Mia figlia è innamorata di voi», soggiunse. «Voi forse non mi conoscete, io...» «È più che reciproco, principessa», rispose in fretta Varenka. «Che buona azione avete fatto ieri per il nostro povero compatriota», disse la principessa. Varenka arrossì. «Non ricordo, mi sembra di non aver fatto proprio nulla», disse. «Ma come? Avete salvato quel Levin da un guaio?» «Sì, la sua compagna mi ha chiamata e io ho cercato di calmarlo. È molto malato ed era scontento del dottore. E io ho l'abitudine di curare questi malati». «Sì, ho sentito che vivete a Mentone con vostra zia, Madame Stahl, mi pare. Conoscevo la sua belle sœur?» «No, non è mia zia. La chiamo maman, ma non le sono parente», rispose Varenka, arrossendo nuovamente. Questo fu detto con tanta semplicità. Così cara era l'espressione sincera e aperta del viso di lei, che la principessa capì perché la sua Kitty avesse preso a voler bene a quella Varenka. «Sicché... che fa questo Levin?» domandò la principessa. «Parte», rispose Varenka. In quel momento, raggiante di gioia perché sua madre aveva fatto conoscenza con la sua sconosciuta amica, dalla fonte si approssimava Kitty. «Ecco allora, Kitty, il tuo gran desiderio di conoscere Mademoiselle Varenka», suggerì sorridendo Varenka. «Tutti mi chiamano così». Kitty arrossì dalla gioia e in silenzio strinse a lungo la mano della sua nuova amica, mano che non rispondeva alla sua stretta, ma rimaneva immobile nella sua. La mano non rispondeva alla stretta, ma il viso di Mademoiselle Varenka era illuminato da un sorriso calmo, gioioso, anche se un po' triste, che scopriva i denti grandi ma magnifici. «Anch'io lo desideravo da molto tempo», disse essa. «Ma voi siete così occupata?» «Al contrario, non sono occupata per nulla», rispose Varenka. «Ma in quello stesso momento dovette lasciare le sue nuove conoscenti perché due bambine russe, figlie di un malato, correvano verso di lei. «Varenka, la mamma chiama!» gridavano. E Varenka andò via con loro. Kitty fece anche conoscenza con la signora Stahl, e questa conoscenza, insieme con l'amicizia per Varenka, non soltanto ebbe su di lei un forte influsso, ma contribuì a consolarla nel suo dolore. Essa trovava consolazione nel fatto che, grazie a questa conoscenza, le si era aperto un mondo completamente nuovo, che non aveva niente in comune con il suo passato. Un mondo elevato, meraviglioso, dalla cui altezza si poteva guardare con tranquillità il passato. Le si era rivelato che, oltre alla vita istintiva, cui fino allora Kitty si era abbandonata, c'era una vita dello spirito. Kitty non apprese tutto questo dalle parole. Madame Stahl parlava con Kitty come con una cara bambina di cui si gode come di un ricordo della propria giovinezza. Solamente una volta accennò che in tutte le umane afflizioni danno consolazione soltanto l'amore e la fede, e che per la compassione del Cristo verso di noi non esistono afflizioni insignificanti. Subito dopo portò il discorso su altro. Ma Kitty, in ogni suo gesto, in ogni parola, in ogni suo sguardo che essa definiva celeste, specialmente in tutta la storia della sua vita che aveva conosciuto attraverso Varenka, in tutto riconosceva quello che è importante e che sinora non aveva conosciuto. Attraverso Varenka aveva capito che bastava solamente dimenticare se stessi e amare gli altri, e si poteva essere tranquilli, felici e meravigliosi. E così voleva essere Kitty. Avendo ora chiaramente capito che cos'era la cosa più importante, Kitty non si accontentò di entusiasmarsene, ma subito si diede con tutta l'anima a questa nuova vita che le si era rivelata. In base ai racconti di Varenka su ciò che facevano Madame Stahl e gli altri che lei nominava, Kitty si era già tracciato un piano di vita futura. Anche lei, come la nipote della signora Stahl, Aline, della quale molto le aveva raccontato Varenka, avrebbe cercato, dovunque avesse vissuto, gli infelici, li avrebbe aiutati per quanto poteva, avrebbe distribuito il Vangelo, letto il Vangelo ai malati, ai delinquenti, ai morenti. Il pensiero di leggere il Vangelo ai delinquenti, come faceva Aline, seduceva Kitty in particolar modo. Ma tutti questi erano sogni segreti, che Kitty non manifestava né alla madre né a Varenka. Del resto, in attesa del momento in cui poter attuare in grande i suoi piani, anche adesso, alle acque, dove c'erano tanti malati e infelici, Kitty trovò facilmente il modo di applicare le sue nuove regole a imitazione di Varenka. Dapprima, la principessa notò soltanto che Kitty si trovava sotto la forte influenza del suo engouement, come lei lo chiamava, per la signora Stahl e in particolare per Varenka. Vedeva che Kitty non solo imitava Varenka nella sua attività, ma senza volerlo ne imitava anche la maniera di camminare, di parlare, di sbattere le palpebre. Ma poi la principessa si accorse che nella figlia, indipendentemente da quell'ammaliamento, si compiva una specie di serio rivolgimento spirituale. Stepan Arkadic era andato a Pietroburgo per assolvere il più naturale dei doveri, noto a tutti i funzionari, benché incomprensibile per i non funzionari, il dovere più necessario, senza del quale non si può tenere un impiego, ricordare se stessi al ministero. E nell'assolvere questo dovere, dopo aver preso con sé quasi tutto il denaro che era in casa, passava il tempo allegramente e piacevolmente alle corse e nelle ville. Dolly, intanto, era andata con i bambini a stare in campagna per diminuire per quanto possibile le spese. Era andata a stare nel villaggio di Ergushovo, lo stesso dove in primavera era stato venduto il bosco che aveva avuto in dote e che si trovava a 50 verste da Pokrovskoe, la proprietà di Levin. Per quanto Stepan Arkadic si sforzasse di essere un padre e un marito premuroso, non riusciva assolutamente a ricordarsi di avere una moglie e dei figli. Aveva gusti da scapolo e ad essi si conformava. Di ritorno a Mosca, egli aveva dichiarato con fierezza alla moglie che tutto era stato preparato, che la casa era un gioiello e che lui la consigliava assai di andarci. Per Stepan Arkadic la partenza della moglie per la campagna era assai piacevole sotto tutti i riguardi: salute per i bambini, meno spese e lui più libero. Daria Alexandrovna invece considerava l'andare in campagna d'estate una cosa necessaria per i figli, specialmente per la bambina che non riusciva a rimettersi dopo la scarlattina, e anche come una liberazione dalle piccole umiliazioni, dai piccoli debiti con il legnaiolo, il pescivendolo, il calzolaio che la facevano soffrire. Oltre a ciò, la partenza le era gradita anche perché sognava di far venire presso di sé in campagna la sorella Kitty, la quale doveva ritornare dall'estero verso la metà dell'estate e a cui era stato prescritto di fare bagni. Kitty scriveva dalle acque che nulla le sorrideva tanto come trascorrere l'estate con Dolly a Ergushovo, così pieno di ricordi dell'infanzia per tutte e due. Circondata da tutti i bambini che avevano fatto il bagno e avevano ancora la testa bagnata, Daria Alexandrovna, con un fazzoletto in capo, era giunta con la carrozza vicino a casa, quando il cocchiere disse: «C'è un signore che arriva, mi pare quello di Pokrovskoe». Daria Alexandrovna gettò un'occhiata davanti a sé e si rallegrò vedendo, in cappello e cappotto grigio, la nota figura di Levin che camminava incontro a loro. Era sempre contenta di vederlo, ma adesso era particolarmente contenta che la vedesse lui in tutta la sua gloria. Nessuno più di Levin poteva capire la sua grandezza. Vedendola, egli si trovò davanti a uno dei quadri della propria familiare felicità immaginata per l'avvenire. «Siete davvero come una chioccia, Daria Alexandrovna!» «Ah, come sono felice!» disse lei porgendogli la mano. «È felice, ma non mi avevate fatto sapere d'essere qui. C'è da me mio fratello. Solo da Stiva ho ricevuto un biglietto che eravate qui». «Da Stiva?» domandò con stupore Daria Alexandrovna. «Sì, scrive che siete venuta qui e pensa che mi permetterete di aiutarvi in qualche modo», disse Levin. E detto questo, a un tratto si turbò e, interrotto il discorso, continuò a camminare in silenzio accanto alla carrozza, strappando i germogli dei tigli e spezzandoli con i denti. Si era turbato, avendo supposto che a Daria Alexandrovna sarebbe spiaciuto l'aiuto di un estraneo in cose che avrebbero dovuto essere fatte da suo marito. A Daria Alexandrovna effettivamente non piaceva quel modo di Stepan Arkadic di addossare le proprie faccende familiari agli estranei. Anche per questa sua finezza di intuito, per questa delicatezza, Daria Alexandrovna voleva bene a Levin. I bambini conoscevano Levin assai poco. Non si ricordavano quando mai l'avessero visto, ma non dimostravano nei suoi riguardi quello strano senso di timidezza e di diffidenza che tanto sovente i bambini provano verso gli adulti che fingono e per la qualcosa tanto sovente dolorosamente vengono puniti. Il fingere, in una qualsiasi cosa, può ingannare la persona più intelligente e penetrante, ma anche il bambino più limitato, per quanto ciò venga abilmente nascosto, se ne accorge e se ne ritrae. Quali che fossero i difetti di Levin, in lui non c'era neppure un segno di finzione, e perciò i bambini gli dimostrarono subito una simpatia pari a quella che scorgevano sul viso della madre. Dopo il pranzo, Daria Alexandrovna, seduta sola con lui sul balcone, si mise a parlare di Kitty. «Sapete, Kitty verrà qui e passerà con me l'estate». «Davvero?» disse egli accendendosi e subito, per cambiare discorso, aggiunse «Così vi debbo mandare due mucche. Se proprio volete che facciamo i conti, favorite pagarmi 5 rubli al mese, se non vi rincresce». «No, vi ringrazio, ormai tutto è a posto». «Kitty mi scrive che nulla desidera tanto come la solitudine e la tranquillità», disse Dolly dopo il silenzio che era sopravvenuto. «E come va la sua salute? Meglio?» domandò Levin con emozione. «Grazie a Dio sei completamente ristabilita. Io non avevo mai creduto che fosse malata di petto». «Ah, sono molto contento», disse Levin. E a Dolly parve di vedere qualcosa di commovente ed inerme sul suo viso mentre diceva questo e la guardava in silenzio. «Sentite, Konstantin Dmitrich», disse Daria Alexandrovna, sorridendo con il suo sorriso buono e un po' canzonatorio. «Perché siete arrabbiato con Kitty?» «Io? Io non sono arrabbiato», disse Levin. «No, siete arrabbiato. Perché non siete passato né da noi né da loro quando siete stato a Mosca?» «Daria Alexandrovna», disse lui arrossendo fino alla radice dei capelli, «mi meraviglio persino che voi con la vostra bontà non l'abbiate sentito. Come fate a non aver semplicemente un po' di pietà per me quando sapete...» «Che cosa so?» «Sapete che io ho fatto una proposta e che ho avuto un rifiuto», proferì Levin. E tutta la tenerezza che un momento prima sentiva per Kitty lasciò il posto in lui a un sentimento di rancore per l'offesa patita. «Perché pensate che io lo sappia?» «Perché tutti lo sanno». «Ma in questo poi vi sbagliate. Io non lo sapevo, benché l'intuissi». «Ah, ebbene, così lo sapete adesso». «Io sapevo solo che c'era stato qualcosa che la tormentava terribilmente e che lei mi aveva pregato di non parlare mai di questo. E se non l'ha detto a me, non l'ha detto a nessuno. Ma che cosa c'è stato fra voi? Ditemelo». «Vi ho già detto che cosa c'è stato». «Quando?» «Quando sono stato l'ultima volta da voi». «E sapete che cosa vi dico?» disse Daria Alexandrovna. «Ho terribilmente, terribilmente compassione di lei. Voi soffrite soltanto per orgoglio». «Può darsi», disse Levin. Essa lo interruppe. «Mentre di lei, poveretta, ho terribilmente, terribilmente compassione. Adesso comprendo tutto. Quando voi avete fatto la proposta a Kitty, lei era precisamente nella situazione di non poter rispondere. C'era in lei un dilemma. Il dilemma, voi o Vronsky? Lui lo vedeva ogni giorno, voi non vi vedeva da molto. Supponiamo che fosse stata più vecchia. Per me, ad esempio, al suo posto non avrebbe potuto esservi dilemma. Lui mi è sempre stato antipatico e così appunto è andata a finire. Levin rammentò la risposta di Kitty. Aveva detto, no, questo non può essere. Daria Alexandrovna, disse seccato, apprezzo la vostra fiducia in me, ma penso che vi sbagliate. Comunque, abbia ragione o no, quest'orgoglio che voi tanto disprezzate fa sì che ogni pensiero su Caterina Alexandrovna sia per me impossibile, capite? Assolutamente impossibile. Dirò ancora una cosa sola. Voi capite che io parlo di una sorella che amo come i miei figli. Io non dico che lei vi ami, ma volevo soltanto dire che il suo rifiuto in quel momento non dimostra nulla. Io non lo so, disse Levin con eccitazione. Se sapeste come mi fate male. È lo stesso che se vi fosse morto un bambino e vi dicessero era così e così avrebbe potuto vivere e voi ne avreste gioito, ma lui è morto, morto, morto. Come siete buffo, disse Daria Alexandrovna con un triste sorriso nonostante l'emozione di Levin. Ah sì, adesso capisco sempre di più, proseguì pensierosa. Allora non verrete da noi quando ci sarà Kitty? No, non verrò. Si intende, non eviterò Caterina Alexandrovna, ma dove potrò cercherò di risparmiarle il fastidio della mia presenza. Si congedò e se ne andò, e lei non lo trattenne. Elsa Galvato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj, riduzione del testo di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @chiocciolarai.it.